Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte quindicesima. Nelle celle di isolamento spesso la gente non ce la fa più a resistere e allora si fa del male, perché una volta che sei cacciato lì, solo dentro quel buco, ferirti, procurarti delle ferite diventa la sola arma che hai per attirare su di te l'attenzione, per protestare contro la lunghezza dell'isolamento, per ottenere che il magistrato ti interroghi. C'è chi riesce a procurarsi una lametta e si taglia, c'è chi ingoia pezzi di vetro, pezzi di ferro, chi si spacca le dita e cose di questo genere. Le forme di autolesionismo sono tante e fantasiose. Ognuno deve arrangiarsi con quello che ha e che riesce a procurarsi. C'è chi sbatte la testa contro il muro. Sembra impossibile crederci, ma c'è proprio chi prende la rincorsa e sbatte la testa contro il muro. Spacca la testa contro il muro. Così, perché è l'unico modo. C'è chi fa l'autolesionismo perché è depresso e spesso anche solo per farsi curare se è ammalato e non viene curato. Oppure c'è chi fa l'autolesionismo per evitare un pestaggio delle guardie. Ci si fa male in anticipo per limitare le botte delle guardie che arrivano lì per massacrarti e ti vedono giù pieno di sangue. Così si limitano perché hanno paura che uno già ferito, se lo pestano, può rimanerci. E allora per forza ci sono le indagini e possono capitare dei guai. Mi vengono in mente i racconti che facevano per guadagnarsi qualche giorno di malattia a Pepe. Si era fatto sbattere una portiera della 500 su una mano da Olivo. Anche Ortica raccontava una volta si era rotto un mignolo della mano col classico sistema dei militari di leva, anestetizzandosi il dito col gas dell'accendino e poi infilandolo nel collo di una bottiglia di Coca-Cola. Si prende la bottiglia con l'altra mano e la si rovescia indietro con un colpo secco. Così il dito si rompe e non senti male. Poi va dal medico e ti fai dare i giorni. A me sembravano racconti pazzeschi, ma poi mi sono reso conto anch'io, quando sono andato a lavorare in fabbrica, di come stavano le cose. Io non avevo mai lavorato finora, ma adesso del nostro gruppo di affinità l'unica che lavorava era rimasta Valeriana e i soldi non ci bastavano per la casa. Cotogno aveva perso il posto, faceva l'elettricista, ma non andava d'accordo col suo padrone, perché questo pretendeva di averlo sempre disponibile, anche per lavoretti fuori orario, la sera e anche il sabato. Poi la cosa era degenerata quando Cotogno, durante un lavoro in un negozio di elettrodomestici, si era portato a casa un televisore a colori. Il padrone del negozio non aveva prove, però ne ha parlato col padrone di Cotogno, che con un pretesto lo ha licenziato. Valeriana lavorava già da 2 anni. Finito il liceo non aveva trovato altro che quel lavoro all'ospedale, come infermiera, ma in realtà le facevano fare le pulizie, le facevano lavare i pavimenti e la biancheria. Si era iscritta a lettere, all'università, ma non aveva mai frequentato, né dato un esame, né aveva le palle piene di fare quel lavoro e non vedeva l'ora di mollarlo. Macchina andava ancora al liceo e così toccava a me o a Gelso darci da fare. Ci siamo messi a distribuire depliant pubblicitari di una società immobiliare. Avremmo dovuto fare quartieri interi, infilando i depliant dentro le cassette delle lettere. Una paga di merda. Facevamo mezz'ora a distribuire e poi buttavamo i pacchi ancora incartati dentro i sacchi della spazzatura. Poi passavamo la sera nell'ufficio della società a prendere i soldi. Dopo qualche giorno si sono accorti che non li distribuivamo. e non ci hanno dato più il lavoro. Facevano dei controlli, mandavano in giro qualcuno a controllare se i depliant erano stati distribuiti e telefonavano un po' a casaccio nelle casse per verificare. A noi non ce ne fregava niente. Dopo di noi sarebbero arrivati altri e avrebbero fatto la stessa cosa. Allora io ho avuto l'occasione di lavorare nella fabbrica di celluloide, perché avevo un parente che ci aveva lavorato fino alla pensione e lì le assunzioni erano fatte col criterio della parentela. La direzione assumeva solo delle persone che avevano un parente che lavorava lì da anni. In genere era il padre che già lavorava lì da una vita e allora si assumeva il figlio. Così c'era maggiore garanzia, maggior controllo, maggiore possibilità di ricatto. Ma questo criterio di assunzione non valeva per tutti i reparti della fabbrica. La direzione usava questo criterio solo nei reparti che considerava centrali. Poi c'era il settore della semplice produzione, quello del lavoro più massacrante, nel quale mettevano in conto un ricambio naturale e quindi in questi reparti assumevano manodopera dequalificata, soprattutto giovani meridionali, che sapevano già di entrarci per qualche mese e poi licenziarsi. Perché era un lavoro insopportabile, molto nocivo e con ritmi impossibili da reggere. E era il lavoro che facevano sulle calandre, che erano enormi macchine formate da una specie di grande imbuto in alto che convogliava i blocchi di celluloide scaldati a alta temperatura dentro due enormi rulli d'acciaio che giravano verso l'interno facendo venire fuori in basso le lastre di celluloide. Il reparto dove lavoravo io invece era il reparto sperimentazione. Si chiamava così e era un po' il cuore della fabbrica, dove si sperimentavano i prodotti nuovi, si facevano i prototipi, insomma, lì si producevano montature per occhiali e pettini. La sperimentazione riguardava diversi colori da dare al celluloide, dei pettini e delle montature per occhiali. Era considerata una cosa prestigiosa lavorare in quel reparto, non solo perché i ritmi non erano quelli massacranti della produzione, ma soprattutto perché si lavorava a fianco dei tecnici e degli ingegneri, e questo era motivo di orgoglio per quei vecchi operai che nel lavoro ci credevano e lavoravano tutti come scemi. Erano tutti vecchi gli operai di quel reparto, ce n'erano solo due giovani come me. Io non sapevo bene cos'era quella fabbrica. La vedevo dall'esterno come una cosa mostruosa, enorme e sporca, che scaricava fumi nell'aria e liquidi puzzolenti nel fiume, che gli scorre di fianco. L'impressione che ho avuto la prima mattina di lavoro è stata dura. C'era questa storia di alzarsi, che faceva ancora buio, perché era inverno, di prendere l'autobus che passava nei paesini a raccogliere gli operai. E poi la sosta davanti ai cancelli, la fila che entrava in una specie di tunnel e poi timbrare il cartellino. E mi hanno indicato dove dovevo andare e già lì, subito, mi è venuta voglia di andarmene, via, di girare le spalle e via, uscire di lì, e andarmene quando ho visto il mio reparto, una specie di corridoio lungo e stretto, senza finestre, c'erano solo dei grandi lucernai in alto. E una puzza tremenda di solventi, toluolo, benzina, eccetera. Gli operai avevano tutti dei grembiuli neri, tranne il caporeparto, che aveva un grembiule bianco e che stava nel suo ufficio in fondo al corridoio, chiuso da una vetrata, da dove poteva vedere e controllare tutto il reparto. Il caporeparto mi ha fatto vedere le macchine, mi ha detto di comprarmi un grembiule nero e di guardare per i primi giorni quello che facevano gli altri operai, per farmi un'idea del lavoro, e così ho cominciato a guardarmi in giro, sfruttando tutte le occasioni che avevo per uscire dal reparto, per andare a prendere del materiale, eccetera, e vedere come era fatta la fabbrica. C'erano questi grandi corridoi scuri con delle diramazioni che di colpo sbucavano nei reparti di produzione, dove c'erano rumori assordanti, un clima irrespirabile, un caldo, una puzza impossibile, pensavo, per la gente che ci lavorava. Ho scoperto anche che in un cortile interno c'era una porta che dava in un piccolo locale di 4 metri per 4, dove gli operai andavano a fumare. perché i materiali usati erano altamente infiammabili e allora la direzione permetteva agli operai di andare lì ogni tanto a fumarsi una sigaretta. Era un locale senza neanche una finestra e il fumo delle sigarette lo riempiva che non ci si vedeva neanche in faccia. C'era solo qualche panca contro i muri scrostati. Ci venivano per lo più i vecchi operai con le loro facce consumate e rassegnate. Non si scambiavano neanche una parola, fumavano la loro sigaretta in quel locale tossico e pieno di fumo e poi tornavano nei reparti che avevano una nocività altissima, perché le sostanze usate erano tutte cancerogene, soprattutto i coloranti, e lì, dopo che andavano in pensione, tutti morivano di cancro, dopo qualche anno. Dopo il periodo di prova, il lavoro che mi hanno dato da fare insieme agli altri due giovani era una cosa demenziale. Ci hanno portato in un locale dove c'era una grande vasca contro una parete. La vasca di ferro era piena d'acqua che bolliva, scaldata dai fornelli a gas che correvano sotto la vasca. Sopra la vasca c'erano dei cerchi di ferro, dove bisognava infilare le ampolle di vetro con dentro il solvente e il colore in polvere, preparato dai tecnici. Dall'ampolla chiusa con un tappo di sigaro partiva un tubo di gomma che finiva in una serpentina di vetro. Ci hanno dato dei guanti di gomma fino ai gomiti, perché dovevamo ogni tanto agitare l'ampolla sulla vasca d'acqua bollente per aiutare il colore a mischiarsi bene. La parete dietro alla vasca era tutta rossa e il vecchio operaio che ci ha portato lì ci ha detto, sghignazzando, che era scoppiata un'ampolla qualche mese prima e quello che la teneva in mano va in giro ancora tutto dipinto di rosso perché il colore è indelebile. Io ho preso in mano l'ampolla di vetro e dovevo stare attento a non farla urtare contro il cerchio di ferro o il bordo della vasca, perché se no scoppiava, e dovevo anche stare attento a non piegare il tubo di gomma, perché se no la pressione del liquido non aveva sfogo e scoppiava. Tutto lo stesso. E ogni volta che tiravo fuori un'ampolla per agitarla, sudavo freddo, appena la agitavo, il liquido schizzava su per il tubo e riempiva tutta la serpentina fino al livello massimo e se lo superava scoppiava tutto lo stesso. Dopo qualche giorno ho pensato bene di farla finita con quella storia. Ci siamo procurati un po' di colorante e lo aggiungevamo a ogni formula che ci davano e così i colori alla fine risultavano tutti sbagliati e il danno era grosso perché ogni formula sbagliata erano un sacco di soldi che volavano via. In quel periodo c'era un casino generalizzato dappertutto, nelle fabbriche e fuori. Nella città strade intere si incendiavano al passaggio di cortei di decine di migliaia di persone, scontri violentissimi con la polizia, armerie svaligiate, fabbriche e università occupate, cacciata di sindacalisti. Era chiaro che il minimo che si potesse fare in quella fabbrica di mummie era un po' di sabotaggio e poi andarsene. E così una mattina abbiamo smesso di andarci e in poco tempo anche tutti i giovani che lavoravano in quella fabbrica se ne sono andati via, uno dopo l'altro. Preferivano fare i disoccupati che crepare lì come i loro patri. Dopo 10 giorni di isolamento è arrivato un brigadiere e mi ha detto di fare la mia roba perché mi trasferivano di sopra, al braccio. E appena sono stato portato di sopra e mi hanno aperto questo portone che dava sul corridoio del braccio, immediatamente ho capito che lì al braccio la situazione era completamente diversa. Ho sentito un baccano incredibile. Lì tutte le blindate delle porte delle celle erano aperte, anzi, allora non erano nemmeno blindate, erano semplicemente porte di legno pesanti. Le porte di legno erano aperte e erano chiusi solo i cancelli delle celle. C'era un grande movimento, un grande chiasso e vedevo dietro i cancelli gente che si faceva da mangiare, che giocava a carte, insomma, c'era molto movimento, molto chiasso. E questa era la cosa che più mi ha impressionato dopo 10 giorni di isolamento. C'era il vociare dei detenuti e c'era la televisione, tutte le televisioni accese in tutte le celle a altissimo volume. Sentivo le sparatorie dei Western Spaghetti che le televisioni private trasmettevano ogni ora del giorno e della notte. Una delle caratteristiche dei comuni che ho scoperto subito è che vivevano di notte, perché stavano svegli tutta la notte a giocare a carte, giocavano a soldi e i pagamenti poi venivano regolati fuori dagli amici e familiari. Perché in carcere non si possono tenere soldi, stavano svegli tutta la notte a giocare a soldi, con le televisioni accese al massimo e poi dormivano di giorno, mettevano con lo scotch dei giornali alle finestre e sopra ci mettevano delle coperte, e così nelle loro celle non c'era mai la luce del giorno. Se gli serviva la luce, accendevano le lampadine. Erano dei veri coatti. In carcere si usa questo termine, coatti, per definire questi comportamenti, questa maniera di vivere, la carcerazione. Questo stile che poi si esprime anche attraverso l'abbigliamento, il coatto classico è quello che sta sempre con l'accappatoio o la tuta o il pigiama, anzi, la tuta è già una cosa più elegante. Questi erano sempre con il pigiama e l'accappatoio, scendevano all'aria sempre così, pantaloni del pigiama con sopra l'accappatoio, ciabatte con le calze, senza radersi mai. Mentre nella giornata del colloquio si trasformavano perfettamente rasati, lo shampoo, colonia e dopobarba, il vestito elegante, camicia bianca e cravatta, qualcuno anche con il doppio petto gessato e le scarpe di vernice lucidissime, si vestivano così per il colloquio con la moglie e la famiglia, mentre il resto della settimana stavano in pigiama. Sono stato portato in questo braccio, mi hanno portato fino al cancello della mia cella, che era un camerone in cui c'erano già tre compagni, tre politici, mentre nella cella vicina c'erano altri due compagni. Eravamo in tutto sei politici, in quel braccio di comuni, ma l'aria non la facevamo insieme, noi facevamo l'aria a un orario diverso da quello dei comuni. Appena entrato nella cella, la cosa che mi ha colpito era la quantità di oggetti che era accumulata nella cella, che a differenza della cella di isolamento era una cella arredata e c'erano accumulati viveri e vestiti dappertutto. Era una cella molto colorata, le pareti erano di colore azzurro, le avevano colorate di azzurro, che mi sembrava un colore stranissimo per la cella di un carcere. Sono entrato in questa cella dove c'erano questi compagni, che mi hanno visto un po' sballottato, mi hanno fatto subito il caffè e poi hanno preparato subito da mangiare. In cella dei ravioli in brodo. Erano praticamente 10 giorni che mangiavo solo il cibo schifoso del carcere e i ravioli mi sembravano buonissimi. I compagni si informavano su quello che mi era capitato e mi hanno dato dei consigli legali. Mi hanno dato l'impressione di conoscere un sacco di cose che io proprio non conoscevo. Avevano in cella anche un codice penale e ogni tanto lo consultavano quando non si trovavano d'accordo su qualcosa. E poco a poco mi hanno aiutato a capire come funzionava il meccanismo carcerario. Mi indicavano le guardie più morbide e quelle più carogne, e il modo di comportarmi secondo le circostanze. In quel braccio ho cominciato anche a capire che tipo di rapporto c'è tra noi comuni, o almeno i comuni di quel braccio, perché non è che tutti i comuni sono uguali. E lì i comuni, attraverso le richieste che ci facevano, attraverso il lavorante o gridandoci dalle celle, ci chiedevano in continuazione di tutto, ci chiedevano roba da mangiare, sigarette, di tutto in continuazione. E i compagni della mia cella mi hanno spiegato che questi comuni avevano la convinzione che noi avevamo più soldi di loro, perché eravamo per loro una grande famiglia, perché ragionavano: io sono un piccolo delinquente, senza soldi, e qui in carcere mi tocca magari fare storie incredibili per mangiare, per fare avere dei soldi alla famiglia, per l'avvocato, eccetera. Mentre voi siete una grande famiglia, avete la solidarietà e il sostegno materiale di tanta gente fuori, perché quando vi arrestano la gente fa le manifestazioni per voi, firma appelli, fa casino, raccoglie soldi per voi e ve li manda in carcere. E avete gli avvocati che sono vostri amici, che pagate poco o che addirittura non pagate niente. E tutte queste sono cose che noi non abbiamo e a voi i soldi non mancano mai. Quindi, se vi chiediamo le sigarette, non dovete avere nessuna difficoltà a darcele. Insomma, quello che chiedevano era di partecipare anche loro indirettamente a tutta questa solidarietà che vedevano che noi avevamo. Chiedevano attraverso qualche segno che questa solidarietà arrivasse in parte anche a loro. Un'altra funzione che ci chiedevano era quella di scrivani, per la compilazione di richieste di colloqui, di permessi, di trasferimenti, di sconto pena, di semilibertà, istanze di tutti i tipi che inviavano in continuazione ai magistrati, ai giudici, alle corti, agli avvocati, alle direzioni del carcere, al ministero, eccetera. E ci chiedevano anche di scrivere le lettere alle fidanzate e alle mogli, se non lettere intere, almeno delle idee o delle belle frasi, delle poesie, perché noi avevamo la cultura, eravamo gente che aveva studiato. Io qui in carcere mi sono accorto dell'importanza di scrivere. Prima praticamente non avevo mai scritto delle lettere, non l'avevo mai considerato un mezzo di comunicazione e adesso invece era l'unico modo, insieme al colloquio settimanale, se vuoi conservare dei rapporti, se vuoi portarli avanti. Una volta lì mi è capitato uno che mi ha chiesto di scrivere a delle donne, aveva trovato degli indirizzi negli annunci di qualche rivista. C'erano anche dei magnaccia in questo braccio, che da dentro mandavano avanti il loro lavoro, cercando di costruirsi delle nuove relazioni, e scrivevano alle donne nella prospettiva di vederle poi fuori. Facevano la domanda alla direzione per potersi fare fotografare col doppio petto gessato e si facevano mandare da casa una fotografia dove stavano elegantissimi, col piede appoggiato alla ruota del macchinone rosso fiammante, per mandarli con la lettera e ci chiedevano di inventargli una storia della loro vita, una biografia molto avventurosa. Noi però questo tipo di richieste non le abbiamo mai soddisfatte. Un'altra cosa era, per esempio, che i lavoranti lì dentro, noi politici, ci riempivano di favori. C'era il lavorante della lavanderia che si offriva di lavare la nostra roba personalmente, perché anche lui ci considerava dei detenuti privilegiati, a cui era bene fare dei favori. Poi c'era il lavorante che faceva il panettiere e che faceva un pane schifoso, sempre o troppo cotto o troppo crudo, ma a noi in più ci dava la pizza, la focaccia, che lui cucinava a parte anche per i brigadieri e i marescialli, per farseli amici, o in cambio di favori, perché lui ragionava con la logica della gerarchia e aveva individuato nel nostro braccio noi politici come quelli più importanti e ci offriva le pizze. Però gente così, il più delle volte è infame, è gente che la direzione usa per avere informazioni, è gente di merda, ruffiani spinosi, viscidi infami. Ma quello che più di tutto mi aveva colpito in quei primi giorni, in questo mondo del carcere che stavo scoprendo, è stata la televisione. Io erano anni che non vedevo la televisione, se non il telegiornale. Mentre lì ho cominciato a subire la televisione, perché si tratta proprio di subirla, di berzela tutta 24 ore su 24. E all'inizio la subisci e basta, senza nessun criterio di scelta, te la vedi tutta indiscriminatamente. Perché ti dà l'illusione di sentire di meno il tempo di distrarti, però dopo un po' di tempo ti ritrovi conciato come un cretino, ti ritrovi rincoglionito completamente e se poi spegni la televisione credi di stare peggio, perché non sai più come fare a fare per fare passare il tempo. Libri ribelli. Libri ribelli.